di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Finisce il mio contratto dopo la partita importantissima che abbiamo contro la Lazio e ringrazio al presidente, a Napoli, alla città, a tutti per tutto che hanno fatto per me, però il mio ciclo finisce, io voglio finirlo bene, se possiamo vincere la prossima partita e lasciare a Napoli al livello che noi sappiamo che può essere. E ho fiducia che sarà così. Questa conferenza stampa è stata un po' per dire addio, però voglio dire addio la domenica con una vittoria e con la squadra qualificata per la preliminare del Champions League. Sono tranquillissimo e sono soddisfattissimo di aver avuto alla corte di Napoli il qui presente ispanico guerriero, cavaliere anzi, va, che ha accresciuto la nostra cultura e il senso, diciamo, anche non tragico della tensione, che lui ha sempre creato un clima molto disteso, e di questo ne dobbiamo dare atto, sia nei vostri confronti, che quando vi si sarebbe dovuti mandare a fare in culo non lo ha fatto, sia nei confronti della squadra non lo ha fatto, sia nei confronti miei non lo ha fatto, e quindi diciamo che è un uomo giusto per tutte le stagioni. Beh, poi non vi offendete se parlo di sceneggiata napoletana. Non mi offendete. Nessuno si offenda, poi parlerò di sceneggiata napoletana anche a proposito di quello che è successo stamattina a Madrid con Galliani e Ancelotti chiusi in un albergo per un po' di tempo in maniera un po' preoccupante, e poi Carletto che ha detto, anzi Galliani che ha detto al 50% viene, al 50% si ferma. Lo deciderà mercoledì. Due sceneggiate napoletane di cui avevamo grosso modo indovinato l'epilogo: zucchero, miele e un po' di peperoncino per l'addio di Benitez. Ci hanno raccontato, caro Pierluigi Pardo, qualche bugia bianca o grigia, vedi tu. Ma sì, ma chi se ne frega, lo spettacolo è talmente bello, talmente divertente che è fantastico, perché quella sottile perifrasi, no? Del sì. Mandar via, la usa sì. Solo sui giornalisti. Lui fa un discorso, secondo me, anche tra l'altro condivisibilissimo, nel senso che Benitez è un uomo morbido, è un uomo che sa incassare, è un uomo certamente che non ama la polemica a prescindere, e quindi questo senso di serenità sicuramente l'ha portato ai 2 anni di Napoli. Però diciamo che quella sottile cosa del quando vi si doveva mandare l'abbiamo usata soltanto per i giornalisti, non viene usata né per la squadra né per lo no, ma l'ha usata anche per se stesso. La Laurenti ha fatto uno show eccezionale. Poi ero sul pulmino che mi portava alle porte di Varsavia, quindi stavo lì che rosicavo perché volevo essere anche a Servolturno a godere lo spettacolo dal vivo. Ma insomma, spettacolo puro. De Laurentiis è il numero uno da questo punto di vista, sicuramente. Non c'è dubbio. Adesso delle cose un po', secondo me, inaccettabili, perché comunque insomma tacciare alcuni giornalisti di essere juventini mi sembra francamente una cosa parte del gioco. Sì, fastidiosa, ma parte del gioco, dai. Viviamo in un mondo dove improvvisamente se ti etichettano, capito, in una città in un certo modo, poi c'è il rischio che c'hai veramente il pazzo di turno che viene e ti minaccia. Cioè, sì, bisognerebbe sempre ricordarti dove viviamo, secondo me, da questo punto di vista. Detto questo, dal punto di vista dello spettacolo è qualcosa di straordinario, e devo dirti la verità, penso alla fine che questo chiarimento, sia pure in negativo, sul futuro di Benitez, cioè sul fatto che non rimarrà al Napoli, possa anche essere una chiave psicologica piuttosto che lo stallo che c'era prima. Sì, è vero, perché ragione. Il Napoli domenica la grande partita, certo, no? meglio la chiarezza che è arrivata in fondo, però l'avevamo in qualche modo ipotizzato, no? Cioè che fosse una sorta di tregua armata mentre già tutto era deciso, quindi è avvenuto questo chiarimento alla vigilia dell'ultima partita. Credo che questa 8-0-0-24 perché siete tutti convocati come al solito, credo che questa sia stata una sceneggiata napoletana in piena regola, così come quella di Madrid, ripeto, di cui parleremo più tardi. Non siamo molto sorpresi di questo, non siamo molto sorpresi di sapere che alla FIFA rubano come porcelli, ma anche di questo poi parleremo. Ma certamente non cadiamo dalla seggiola per questo. Senti, una battuta sulla finale di Europa League, bellissima partita. Secondo te, visto il Siviglia che ha alzato un altro trofeo al Napoli, qualche rimpianto in più è venuto? Guarda, dopo ieri sera secondo me anche di più, perché anche secondo me i rimpianti sono aumentati, perché il Siviglia, che è un'ottima squadra e che ha un attaccante straordinario, secondo me, soprattutto per il contributo che dà la squadra. Bacca è uno che segna, ma è anche uno che partecipa, che corre come un matto, una versione, una certa versione di Eto'o, ricordo un po' Eto'o. Esatto, quindi 28 gol stagionali, gli devi fare un coefficiente, no? Fai per 1, decidi tu quanto, perché non è il classico attaccante che segna e basta, si aspetta il pallone nell'area di rigore, attaccante che dà una grande mano. E però Siviglia ha anche delle difficoltà difensive evidenti, che si erano anche viste in qualche modo nel primo tempo contro la Fiorentina, e quindi secondo me era battibile. Poi magari Napoli ci avrebbe perso, però insomma, il rimpianto secondo me rimane. Comunque amen, quella è un'altra storia. Insomma, a Napoli in questo momento hanno altre cose per la testa. Il Siviglia continua a essere il frutto di una grande programmazione con Monchi, che è un fenomeno, e se vai a vedere i giocatori che hanno preso, li hanno presi da squadre piccole, con grandi intuizioni di mercato. Tremolinazzo, lo stesso Bacca, pagato 7 milioni, oggi ne vale almeno tre volte tanto, se non 4. Allora, prima di fermarci per il traffico e di accogliervi sempre, 800240024, visto che ti è piaciuto tanto un altro frammento di De Laurentiis che fa un pizzico di autocritico. Io difatti ho commesso un grande errore per la prima volta in vita mia, cioè io per anni ho sempre detto arriveremo tra i primi posti, quest'anno abbandonando il mio ruolo di presidente e abbracciando il mio ruolo di tifoso, vedi come si cambia nella vita, piano piano sto diventando un tifoso, tra poco diventerò forse un ultra, e mi sono sbilanciato e ho detto lo scudetto, e quindi ho disatteso poi le promesse che hanno preso come fatte dalla società e dal presidente. Tutti convocati. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta... Tutti convocati. Mi auguro anche che questi anni bui, quasi da medioevo spagnolo, scusami, anzi da inquisizione spagnola, visto che ci sono stati gli spagnoli a dominare a Napoli, stia finendo. Positivo o no? Positivo, positivo. Vabbè. Per alcuni aspetti architettonici positivo. Ma guarda, tieni presente che fino al 1820, 30, 40, 50, fino al 59 era il regno più ricco d'Italia, capito? Poi dopo Conte Camillo Benso di Cavour, gran paraculo torinese, sempre Torino c'è di mezzo, no? Ha fatto uno scippo, si è fottuto tutte cose e lì è cominciato il nostro dragone. In diretta siamo. Vabbè, no, siamo in diretta, ma questa è storia, ragazzi. Da 1 a 10 quanto ti è piaciuta questa, Pardo? Ma straordinaria, veramente straordinaria. Perché De Laurentiis, sempre diciamo, parla legandosene altamente delle conseguenze di ogni sua dichiarazione. Certo. E questo io lo considero un grande significato, insomma, al di là di tutto. Ma hai sentito prima, per una volta in vita mia, la prima volta che mi capita, che ho sbagliato, che ho detto no, sì, scusate, sì. Mai successo prima. Allora, sì, però insomma, voglio dirti adesso sinceramente, se io devo valutare la gestione della Laurenti in questi anni, perché poi non bisogna cadere nell'errore di pensare al qui e ora e subito senza avere un minimo di prospettiva temporale. Questo è un presidente che è arrivato e che ha investito e ha portato il Napoli molto in alto. Poi si può discutere su una stagione, su una scelta, su una conferenza stampa o sulla dichiarazione giusta o sbagliata, però il senso complessivo della gestione di De Laurentiis ad oggi è particolarmente positivo. Ma non c'è dubbio, ma nessuno l'ha mai messo in dubbio, Napoli crepuscolare che ha ereditato. Però, nessuno l'ha mai messo in dubbio, questo nessuno l'ha mai messo in dubbio, se non i malpensanti. Allora, con questo messaggio, Raffaele, Aurelio e le male femmine, io saluto la voce più amata, The Vox, più amata dai napoletani, Raffaele Auriemma. Buongiorno. Buongiorno, ma io quella canzoncina lì è un po' aulica, non so cosa sia. Avrei messo più Iso Pazzo di Pino Daniele, più nel contesto. Vuoi Iso Pazzo? Adesso te la c'è. De Laurentiis ha grandissime qualità imprenditoriali, è un uomo intelligentissimo, però talvolta esagera nel linguaggio, nelle espressioni, offende un po' troppo. La domanda è questa: perché lo fa? Visto che lui è il numero uno in assoluto, io lo stimo, ma non poco, ma mi chiedo perché talvolta si lascia andare a considerazioni di ogni tipo, giusto per regalarsi un po' di ma non ne ha bisogno, perché lui davvero, io lo considero il più illuminato dirigente del calcio italiano. Per questa ragione, secondo me, se parlasse di meno, se operasse un po' dietro le quinte, come sembra voler fare adesso, perché ha lasciato intendere che arriverà non uno ma due direttori sportivi, allora il Napoli ne trarrà grandi benefici. Sì, secondo me quest'anno però Raffaele ha parlato fin troppo poco, cioè è vero, è teatrale, cinematografico eccetera, però in questa stagione si è avvertita in maniera particolare la sua mancanza, Pier. Io non sono d'accordo. Io penso per esempio che sinceramente che la dichiarazione post Napoli Dnipro manca ovviamente la controprova, non sia stata una dichiarazione, io la capisco perfettamente, perché la rabbia del tifoso dopo quel clamoroso fuorigioco non aveva è stata una grande intuizione questa, però forse bisognava dire le stesse cose con un linguaggio un pochino diverso, forse, per carità, non pretendo di dare lezioni a nessuno, però ho avuto la sensazione che insomma in vista di una partita di ritorno che c'era da giocare era giusto mettere i puntini sulle i, per carità, i puntoni, visto il furto clamoroso, però forse lo si potesse fare in una maniera un pochino più furba, se mi posso permettere. Tre volte secondo me De Laurentiis si lascia prendere un po', come nella famosa pseudo conferenza stampa improvvisata dopo Napoli-Lazio, che comunque creò degli equivoci, perché insomma sembrava improvvisamente che i giocatori del Napoli fossero dei tronisti nelle discoteche napoletane. Non era così assolutamente, De Laurentiis non intendeva dire questo, però è ovvio che se vengono fatti certi discorsi in un mondo del calcio dove qualsiasi virgola viene soppesata. Cioè, a me la sensazione che ho io è che De Laurentiis delle volte parli, ed è anche il suo bello, come se fossimo a cena tutti insieme a raccontarci delle cose in piena libertà e in piena allegria. È un uomo di con spettacolo, i toni, con la sincerità e con la libertà. È un uomo di spettacolo in un mondo parecchio paludato, no? Un po' più di diplomazia può essere utile, però ripeto, è una mia idea, insomma. Io personalmente, di fronte a questa conferenza stampa, la sensazione che ricavo è di divertimento. Non so se ha offeso anch'io qualcuno in maniera particolare. Ce lo dice Raffaele che ci introduce anche al futuro e penso possa condividere con noi la sensazione che tutta questa è stata una gran sceneggiata, perché era già tutto previsto. Ti regalo questa, Raffaele. La volevi? Sì, ma più che... La volevi? la volevo, è questa, infatti. È una gran sceneggiata, sinceramente la potevano anche evitare, perché non so a cosa serva il giovedì prima di Napoli-Lazio, anche se De Laurentiis ora vuole apparire come quello lì che conta i titoli in bacheca, quando invece ha sempre detto che conta arrivare in Champions, ma giustamente, perché il Napoli l'unica risorsa che può avere è quella dei proventi che arriveranno ovviamente dalla partecipazione alla Champions, quindi la Supercoppa, la Coppa Italia, le ha sempre considerate coppette, ma le considero anche io tali se non aggiungi alle stesse una partecipazione alla massima competizione continentale. Detto questo, la domanda che adesso tutti i tifosi si rivolgono: ma miglioreremo o peggioreremo da questo momento in avanti? Sicuramente cambieremo, però io credo che un miglioramento ci sarà, perché in questi due anni il Napoli ha avuto una crescita sotto l'aspetto dirigenziale, quindi molto ha imparato da Rafa Benitez, e quindi da questo momento in poi, lo ha detto oggi in conferenza stampa, non sempre quando prendi quelli che hanno un nome blasonato poi ottieni i risultati. Credo che il Napoli di Rafa Benitez sia rappresentativo di tutto questo, per cui ha fatto degli esempi: la Juve ha preso Tevez a Donny, non l'ha pagato 40 milioni, quindi credo che indirettamente si rifacesse all'acquisto di Higuain, che invece è costato 40 milioni, grandissimo attaccante, ma probabilmente è pagato un po' troppo. Quindi credo che sulla base di questa esperienza il Napoli farà grandi benefici con il prossimo allenatore. Quell'acquisto lì è nato anche perché il Napoli aveva i soldi di Cavani. Certamente. Sapevano, cioè, quando una società ha dei soldi, è il caso per esempio praticamente del Chelsea di Abramovic o del Manchester City, ma succede in piccolo anche a realtà italiane. Quando c'è un momento in cui, a fronte di una grande cessione come la stagione di Cavani, sai che il Napoli ha i soldi, è ovvio che uno come Higuain può pagare. Quindi io, secondo me, non è quello, non sono i 40 milioni per Higuain, magari sono i 12 per Albiol, con tutto rispetto. O però Pierluigi, guarda, voglio integrare il tuo ragionamento dicendo che se il Napoli non avesse ceduto Cavani, se la piazza non ribolliva, Prentis non avrebbe mai preso Higuain a 40 milioni, gli serviva un nome forte per coprire quell'altro che era andato via. Però quello che ha detto oggi ti lascia capire che quella cosa lei non la farà più, non spenderà più tutti quei soldi solo per prendere un calciatore che ha un nome blasonato. Guarda che io mi ricordo quando De Laurentiis disse di fronte al mondo: ho 120 milioni in tasca da spendere, eh. E poi, dato che non è un mondo di fessi, ma magari di meretrici, allora tu dici: ok, dichiaro di avere 120 in tasca, pronti da spendere, ed è evidente che i prezzi sul mercato non ne decidi più tu, no? Io ho un box in zona Rogoredo, no scherzo, ma non ce l'ho, però voglio dirti che chiunque con qualcosa in mano chiaramente lì prova a piazzare l'affare, no? Ma io, insomma, ti dico sinceramente, il Napoli secondo me in questi anni ha investito, non si può dire che De Laurentiis non abbia investito. Poi è chiaro che il tifoso vorrebbe sempre di più, però secondo me le cose vanno valutate complessivamente. Ha fatto grandi investimenti, la crescita della società è stata costante se guardiamo ai massimi sistemi, se guardiamo insomma nel medio periodo sicuramente c'è stata una crescita. Poi ci sono ovviamente le stagioni, e io dico la verità, da Benitez mi aspettavo di più, lo dico soprattutto in questa stagione, ma l'abbiamo detto con grande onestà, con grande onestà per tutta la stagione, cioè se Napoli non dovesse arrivare almeno terzo, la stagione non potrebbe essere classificata come positiva. So che devi prendere un volo. Permetti Carlo, dimmi, anche se dovessi arrivare terzo, come ovviamente a Napoli ci auguriamo, comunque sarebbe una stagione negativa, perché tu quest'anno dovevi arrivare secondo allegramente, sperare che nel derby capitolino la Lazio venisse sconfitta per poi accanto agli ultimi 90 minuti, quindi comunque è negativa, e questo lo dico per spezzare lancia in favore di De Laurentiis, perché tanti sostengono che De Laurentiis sia tirchio, lo dicono i tifosi del Napoli. Se andate a leggere i numeri, io spesso lo faccio proprio per non cadere in errore, da quando è arrivato De Laurentiis, stagione 2004-2005, ad oggi il Napoli è collocato al 10° posto al mondo come società che ha speso di più per cartellini in calciatori, decima al mondo, ed è la prima in Italia. Immediatamente dopo viene la Juventus, quindi credo che questi numeri siano rappresentativi di quanto sicuro è stato fatto da De Laurentiis. Sicuro. Raffaele, in una battuta, adesso Mihajlovic, Bigon via, arriva un nuovo direttore sportivo, potrebbe essere Sogliano, giusto? Questo è il quadro. Guarda, Bigon via lo ha confermato anche oggi De Laurentiis, l'abbiamo sentito. Quindi svelando un altro mistero di Pulcinella, per cui ci ha anche detto che si avvicinerà a casa, quindi lui è di Padova, Verona. Non sia il Cittadella, presumo non sia il Cittadella come società. Però per quanto riguarda l'allenatore, secondo me Mihajlovic è quello che ha già un accordo di base con De Laurentiis, che non è stato ancora trasformato in contratto. Però credo che De Laurentiis era la partita di domenica per capire se puntare su un altro allenatore che abbia un profilo ancora più internazionale. Il nome che più recentissimamente è venuto fuori è quello di Cesare Prandelli, che potrebbe essere ben speso a Napoli. Grazie. Posso Raffaele dire una cosa in 20 secondi, che invece quello che non mi è piaciuto, ripeto, l'ho seguita via Twitter la conferenza sul pulmino verso l'aeroporto di Varsavia, è questo riferimento alla famiglia. Sì, anche a me piace. Poi ne parliamo. Anche perché sappiamo, Raffaele lo sa meglio di me, che poi spesso si può fare confusione, soprattutto quando ci si mette di mezzo Napoli con tutti gli stereotipi che ci sono in giro per il mondo, no? E, insomma, Napoli, qual è il problema? Benitez, per carità, se va a Real Madrid, ma io l'ho detto, lo dico da mesi, se ha un'offerta dal Real Madrid, dal Paris Saint Germain, dal Manchester City, da quei 4-5 club al mondo che sono oggettivamente superiori al livello del Napoli, perché lo sono, indiscutibilmente, c'è poco da dirci attorno, va benissimo. Ma stare lì a discutere su questo fatto, abbiamo parlato con mia moglie, la famiglia, mi mancava la famiglia, fai il professionista e guadagni un sacco di soldi. Bravo. Sono perfettamente d'accordo con te, guarda, era una cosa che avrei puntualizzato. Raffaele, ti ringrazio. Ho delle TL da paura. Raffaele, ti ringrazio. Pierluigi, io ti tengo quando se devi salire sull'aereo, okay, me lo dici. Guarda, dopo il traffico ci sentiamo. Okay. Dopo la borsa. Bravo. Falli ritardare, che ci sentiamo dopo. Pardone non significa il grande pardo, significa pardo one. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta... Arieccice. Tutti convocati. Ma in questo momento Latte per primo non perderà il controllo della situazione. Così dice Vincenzo Mattarese, memorario della FIFA. Pierluigi, come sei messo col volo? Tra poco partiamo, appena devo staccare. Vabbè, mo dici. Ovviamente siamo in anticipo, è l'unica volta nella storia dell'aviazione. Nella storia dell'aviazione mondiale. Praticamente dovremo partire tra 8 minuti. Tra 8 minuti, vabbè, dai, non stiamo lì a tirare per le lunghe. Se hai bisogno di spegnere il telefono prima di farti arrestare, come è successo a certi signori a Zurigo, per favore, non farti arrestare. Evitiamo. Maurizio Crosetti, buongiorno. È vero, eh? Una bella una retata con la signora Carlinga. Paio di manette in questi giorni non si negano a nessuno. No, scopriamo che Alibaba e 4.000 ladroni avevano quelle parti. No, magari ma anche Pierluigi ha ricevuto, chiediamoglielo se ha ricevuto anche lui dalla FIFA un appartamento a Park Avenue per tenerci i gatti. Come credo di sì. La gola profonda della FIFA. Io credo di sì. No, perché non ho gli gatti. Solo per quello. I criceti. La chiave sia stata quella. Le ospiti di Tiki-Taka ci tieni le ospiti, esatto. Di Tiki-Taka. Adesso stiamo andando sullo scabroso, Mau. Vabbè. No, però insomma, quello che sta succedendo in questi giorni può fare tutto indignare, può far incazzare, può far sprecare fiumi di demagogia, ma certamente non può sorprendere, Maurizio. Così, ieri nessuno ha detto accidenti, inquisito la FIFA. Io sembra pensato, ma chi Blatter? Ma perché era ancora a piede libero? Cioè uno può pensare, chi Blatter? Quel Blatter? Quello della FIFA? Vabbè, adesso è troppo facile. Però quello che domani verrà rieletto, dici? Beh sì, adesso leggevo gli ultimi dispacci d'agenzia, come nel giornalismo del fine 800, no? I dispacci d'agenzia, e lì c'è scritto che il fronte del sì si starebbe un pochino sgretolando, ma se ieri erano 150 su 209, adesso saremmo comunque sopra i 100. Certo che occorre veramente avere una faccia, di piombo, di tolla, non so, una faccia di Blatter, per essere Blatter bisogna avere una faccia di Blatter, sì. E lui infatti è lì che sta tentando di diventare per la quinta volta il capo del calcio. Intanto la FBI esulta, ho letto prima i commenti del responsabile dell'FBI, per Putin si tratta di un attacco degli Stati Uniti, sì, certo. E siamo alla politica internazionale se non alla guerra fredda. Sì, pare che ci sia di mezzo anche Platini, che gliel'avrebbe detto De Laurentiis dopo aver cacciato Benitez, e poi ci sono dei signori strani con delle antenne verdi qui sotto la mia redazione. Già, Volevo darti sta notizia, sì. Però vabbè. Pardo, ci sei ancora? No, davvero reazionario, che al di là della sostanza, la tempistica è sospetta, questo me lo fate dire, cioè a due giorni dalle elezioni la tempistica è sospetta, tutto qui, fine delle discussioni. Poi la cosa non mi sorprende, credo che ci siano zone d'ombra enormi e non credo che ci fosse neanche bisogno dell'inchiesta all'FBI, molto spesso noi giornalisti veniamo accusati, ah ma voi dovete dire le cose, e le cose finché non hai le prove, finché non hai, no, finché ti basi su un banale sospetto, come fai a dirne? Al di là dell'aspetto strettamente della diffamazione, ma poi è anche intellettualmente disonesto dire una cosa che è soltanto così, una tua idea che hai in mente perché ti suona così. Quindi la cosa non ci sorprende minimamente. La tempistica è sospetta. Maurizio, lo pensi anche tu così? Sì, beh, la tempistica, basta aver visto i tre episodi del Padrino, parte prima, seconda e terza. Anche il boss capisce perfettamente quando è finito il suo tempo, perché certe cose accadono nel momento in cui te le fanno accadere. Poi spesso però il boss è un boss, cioè è difficile che queste cose, anche con una tempistica diabolica, accadano a San Francesco d'Assisi, perché io ricordo anche altre tempistiche per altri personaggi, per esempio un signore della politica italiana molto amico di un grande amico di Blatter, e cioè molto amico di Putin, un signore che aveva una carica importante in Italia. Si beccò il giorno del G8, dopodiché la storia di questo personaggio dopo non ha rivelato anche lì particolari vocazioni alla santità, ecco, quindi mi stupisce la tempistica ma quasi mai la contenutistica, ecco. Ragazzi, vi saluto perché sennò la hostess ti toglie il telefono e ti arresta e ti manda in gabbia insieme ai signori della FIFA. Non può parlare però. Guarda, io rubo ancora un commento a Maurizio Grosetti, perché sono giorni difficili, sono giorni facili per un giornalista, facilissimi, magari ce ne fossero di più, c'è sì. Un sacco di roba, ragazzi, un sacco di roba da cucinare, compreso Conte, tangenti, Conte cosa dice? Dimmi Conte. Di Conte, i regali, no, di Conte, beh, Conte, i regali di, no, Conte, che dicono o viene prosciolto, un, no, formula piena, e dicono che non ha fatto nulla, certo. O lui se ne va dalla nazionale. Sì, ma guarda, mi chiedo perché ogni cittadino italiano che abbia la sventura o la colpa o la sfortuna o il destino di incappare nella giustizia civile o penale per cose ben più serie di questa, sì, debba, questo povero cittadino, anche se ha una lite per il box del condominio, aspettare 6 mesi, 1 anno, 2 anni, pagare avvocati, mangiarsi il fegato. E invece il cittadino nazionale debba mettere fretta con pressioni trasversali da parte dei suoi avvocati, chissà perché poi, dopodiché non credo che se ne andrà e che mollerà la nazionale, perché nella sua storia professionale non ha mai mollato una squadra da un giorno all'altro, e quindi non succederà. Senti, io voglio che tu risponda a questo messaggio, te lo chiedo come favore personale. Certo che ci vuole stomaco ad ironizzare su Blatter nel paese dove si fanno tangenti sulle forniture di carta igienica. Poi ti saluto. Sì, vabbè, ma qui non è che la proprietà transitiva elude tutti gli altri passaggi della proprietà medesima. Sì, sì, per carità, va bene tutto, ma non è che se uno vive in un paese di carta igienica come il nostro, poi non deve più buttare gli occhi sulle grandi latrine mondiali, no? Dopodiché noi facciamo parte degnamente di questa enorme, sì, latrina mondiale, e quindi se l'ascoltatore è invitato a distinguere i piani, e anche noi, cioè una cosa purtroppo non cancella l'altra, visto che si parla di carta igienica. La materia è sempre quella su cui passa la carta igienica, è un passaggio, non cancella un altro. Non è mai rispondere alla tua domanda che scrivi oggi: cosa raccontiamo ai nostri figli che si ostinano a raccogliere le figurine? E questa rimane, temo, senza risposta. Gli raccontiamo che calcio è bellissimo, purché quando finisce la partita ci si occupi d'altro. Ecco. Ti ringrazio, Maurizio, e ti abbraccio. A voi, ciao ragazzi. Ciao Maurizio Grosetti. 800240024, ci sentiamo subito dopo il traffico con voi ascoltatori, con spero un grande ospite. Già vi dico che dopo il GR parleremo di quel paio d'ore tra Galliani e Ancelotti di questa mattina a Madrid in albergo, al termine delle quali Galliani ha detto 50-50. Mercoledì Carletto ci dirà tutto: 50 viene al Milan, 50 si ferma. Peccato che poi tutti gli indizi portino al 50 in cui si ferma, comprese dichiarazioni della sua signora che ha detto per il prossimo anno, per la prossima stagione, avremo intenzione di fare altro. 800 24 00 24. Tutti convocati. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, C'è una notizia che arriva dal Giro d'Italia che ci piace, punto. Ci piace per niente, cioè Cunego si ritira dopo una caduta in questa 18ª tappa Merida Verbania, di cui parleremo più tardi. Io ci tengo a ringraziare pubblicamente l'ufficio stampa e il management della Ducati, perché sono davvero molto professionali e molto attenti, e ci tengo a ringraziare con il cuore Andrea Annone, che domenica correrà al Mugello sulla moto più attesa. Ciao Andrea. Ciao a tutti, grazie mille. Come stai? Innanzitutto, come sta quella spalla? Ne parlavamo ieri con Guido Meda, proprio a quest'ora e su queste frequenze. Come sta? Come sta? Sta come una spalla che dopo un trauma sta recuperando. Mm. E sicuramente non è al 100%. Mm. E quindi sono come dire, carico ugualmente, sì, ma con un po' di preoccupazione, però sì, dai, cerchiamo di come sempre di fare del nostro meglio. Sì, anche perché Andrea, sai benissimo che l'Italia vi sta aspettando come mai prima d'ora, no? oggi no, sto leggendo Rosso Mugello, sto leggendo questa intervista domenicali, sai benissimo che questa è la gara più attesa per i tifosi della moto italiana, al di là di Valentino Rossi primo, di questo duello per il mondo, tutto quello che vuoi. Sai benissimo che sarete al centro dell'attenzione, ma credo che questo sia bellissimo, no, per voi. Bah, sicuramente sì, è importante essere in questo momento, non dico al centro dell'attenzione, ma comunque carichi di aspettative, perché vuol dire che abbiamo svolto il lavoro durante l'anno passato e soprattutto all'inizio di quest'anno, no? Sì. Quindi, perché comunque le aspettative si creano quando diciamo se ne sente la possibilità, si percepisce qualcosa di buono, di positivo. E quindi bene, sono contento, però per quanto riguarda la mia situazione è sicuramente un po' critica, nel senso che sappiamo le mie condizioni, ho comunque lavorato molto in questa settimana per poter recuperare per il Mugello al 100%, ma è impossibile praticamente recuperare dopo che abbiamo scoperto solo 2 giorni fa di avere questa frattura sulla testa del Romero, ma comunque cercheremo di fare niente senza pregiudizi, cioè di precuderci niente senza pregiudizi. Poi la gente si chiede come fanno i piloti a correre con una spalla rotta, io non lo so. Come fanno? La puntura è via. Non lo so, ma no, purtroppo siamo in una situazione dove abbiamo provato a fare infiltrazioni, ma non abbiamo tratto assolutamente benefici. E quindi anche questa possibilità è stata abbandonata, ecco. Andrea, quanto ti piace da 1 a 10 la tua moto? 10 assolutamente, 10. È importante, come la tua donna, o ti piace tanto più delle altre, altrimenti non puoi starci assieme. Quanto ti trovi bene da 1 a 10 con Dall'Igna? 10. 10 anche lì. Sì, è fondamentale avere un rapporto buono, ottimo con le persone con cui lavori, ma soprattutto con la persona con cui andrai a sviluppare il progetto, che sarà sempre quello del domani. Ma io trovo che questa stagione della Ducati sia meravigliosa, ma era già stata meravigliosa quella dell'anno passato, quindi mi sorprende relativamente. Un'ultima cosa e poi ti saluto, ti lascio andare a curare la spalla. Disegnami il Gran Premio di domenica, cosa succede? Impossibile disegnarlo, ragazzi. Siamo in una MotoGP dove le previsioni non sono assolutamente... Stanno a zero, Stanno a zero. Sì. Hai un'idea su cosa sta succedendo a Marquez? Ma non credo che gli stia succedendo nulla di diverso da quello che gli ha sempre. Credo che lui stia facendo tutto come sempre, solo che ha degli avversari in questo momento più veloci rispetto al passato. Grazie Andrea, in bocca al lupo. Ciao, grazie a voi. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Ciao Andrea Iannone, e vi aspettiamo domenica, sarà una corsa secondo me meravigliosa al Mugello. È il Gran Premio di casa per la Ducati, è il Gran Premio di casa per Valentino Rossi. Io non credo si potesse arrivare a questo appuntamento italiano così in maniera così bella, così sorprendente, con Valentino Rossi in testa alla classifica, con una Ducati fortissima, con i due piloti della Ducati di cui ne parlavamo anche ieri con Meda, e io non ritratto. Dovizioso sta facendo la miglior stagione della sua carriera, e Iannone, con cui abbiamo appena parlato, è la coscienza ribelle che è assolutamente necessaria di questa moto. Quindi possiamo solo aspettare domenica alle 14 quando comincerà questa corsa. Adesso ci fermiamo per il giornale radio, ma vi dico subito che dopo parleremo con Graziano da Bologna, magari parliamo subito se ce la facciamo. Buongiorno Graziano, io mi scuso con tutti voi perché oggi, visto il casino che c'è in giro, non siamo riusciti a parlare con molti ascoltatori, proveremo a fare una seconda parte del nostro programma. Graziano, buongiorno. Ci credo, buongiorno ragazzi, complimenti. Buongiorno. Sempre. Siete fantastici. No, ma io sarò brevissimo. Beh, io mi meraviglio. Io quando ho visto l'estrazione dei campionati mondiali, parte la Russia ma anche del Qatar, sono rimasto basito, ho detto davvero? È possibile? Ho detto beh, io sono un coglione qualunque, poi ho detto beh cazzo, fare i campionati del mondo in Qatar, ma non sono dovuto andare a vedere. Senti Graziano, quanto vengono i campionati del mondo in Qatar? Dai, quanto vengono? Ditemi quanto vengono i campionati del mondo in Qatar, non c'è problema, fate voi il prezzo, quanto vengono a contare, quanto vengono, sì no, quanto vabbè, vengono a fare i campionati del mondo quanto viene a fare i campionati del mondo a San Marino, magari con Sede Bologna, dimmi quanto viene e poi un accordo si trova, ragazzi, questa gente qui i discorsi sono fatti in questa maniera, poi ci possiamo sorprendere del momento, dell'FBI, di Putin che dice sono gli americani che vogliono ribaltare il sistema mondiale, possiamo discorrere di fantapolitica, però una cosa non possiamo fare, una cosa, sorprenderci. GR. Grazie a tutti, ci vediamo tutti quanti al bar, 4 amici al bar. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, ci sono molte storie che avete scelto voi a Il Falco e il Gabbiano. Tra le storie di questa settimana, Yoko Ono, la donna che uccise i Beatles, la Milano romantica e letteraria di Beppe Viola, il lampo e la tragedia di Ian Curtis, l'anima dei Joy Division. Vi aspetto su Radio 24 alle 15.30 con Il Falco e il Gabbiano. Convocati. Confronto diretto senza giri di parole tra Platini e Blatter si è svolto non sotto il sole del Texas in un paesino del West, ma in un incontro segreto a Zurigo. Ebbene, Platini ha chiesto a Blatter di fare un passo indietro e di ritirare la propria candidatura per le elezioni di domani. Il presidente della FIFA però ha opposto un netto rifiuto. Ha detto Platini: sono disgustato, quello che è successo ieri è veramente troppo, le persone non vogliono più questo presidente. Sono stato molto chiaro con Blatter, l'ho guardato negli occhi e gli ho detto che doveva dimettersi. Poi ho avuto un'altra discussione faccia a faccia con lui, nella quale gli ho ribadito che deve dimettersi. Lui mi ha risposto che capisce, ma adesso è troppo tardi. Io ho concluso sostenendo che per la sua immagine sarebbe stato meglio fare un passo indietro, ma so qual è la sua strategia: convincere i membri del congresso a votare per lui contando sulla democrazia. Ma secondo me così perdiamo tutti, dice Platini. Per questo faccio un appello a tutte le federazioni mondiali: votare il principe Ali Hussein. L'Europa lo farà. Ci sono troppi interessi che hanno sconvolto il mondo del pallone, ma la FIFA non merita di essere trattata così perché è la madre del calcio. Questo dice Michel Platini, presidente dell'UEFA. Marco da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e grazie per la conversazione. Mi volevo fermare sulle tematiche precedenti riguardanti De Laurentiis, sì, anche se poi ovviamente il tema giornaliero è questo scandalo. Insomma, sono tutti temi giornalieri, De Laurentiis, è chiaro che sono su piani diversi con un diverso ordine di importanza, se vogliamo, ma temi giornalieri sono De Laurentiis, tema giornaliero è il casino che sta succedendo sulla FIFA il giorno prima delle elezioni presidenziali, il tema giornaliero di cui parleremo tra poco è anche Ancelotti. Dica Marco. Sì, volevo soltanto ribadire questa cosa. Voi siete gli addetti ai lavori, o meglio, siete i professionisti della comunicazione, quindi però potrei prendermi il lusso di dirvi di cambiare mestiere se pensate che quella che De Laurentiis ha fatto con Benitez è una sceneggiata. Nel senso, le pari opportunità di genere, di sesso, eccetera, includono vari aspetti, tra cui quello dell'ipocrisia della razza umana, perché è un mondo pieno di diciamocelo, di lecca culo in tutti i campi, e quindi essere veraci una volta tanto, cioè vi lamentate che la gente non dice, bisogna leggere tra le righe, è stato verace, anzi ha ribadito la signorilità, lui ha usato, ha detto prima guerriero, poi si è corretto e ha detto cavaliere, proprio perché quello è un signore con la S maiuscola. Ma, cioè, Marco, però chiariamo, però chiariamo un punto, ok? Cioè io non sto insultando nessuno né prendendo le parti di nessuno, semplicemente io ho detto fin dall'inizio che alla permanenza di Benitez a Napoli non credevo. Cioè, secondo me è stata una manovra assolutamente intelligente per tenere la squadra tranquilla in un momento in cui c'erano un sacco di cose in gioco. Quindi dico semplicemente che l'addio di oggi tra De Laurentiis e Benitez, bello, poetico, tutto quello che vuole, non mi sorprende, semplicemente questo. Passare per sceneggiata programmata, e questo ho sentito il vocabolo programmata, cioè era quasi tutto programmato. Non credo, credo che sia stato verace, spontaneo e tutto qui. Sì, poi, sì. Senta, volevo aggiungere una cosa sulla questione FIFA, se mi consente. Dica. E la globalizzazione, il nostro globo, no? Poi a parte antennine e uomini verdi, sentivo parlare poc'anzi. Cross, sì. Ma, esatto. A me veniva, no? Io mi occupo di un settore particolare, però veniva in mente, dico, ma come mai il mondo del calcio, no? Abbiamo visto che solo in Italia, con Roma Capitale, Mafia Capitale, insomma, cioè, ma il mondo del calcio, mi domando, ma è esente da tutto questo, con tutti questi interessi? Certamente no. Me lo chiedevo, esatto, me lo chiedevo. Infatti, anche qui ho detto prima, l'ho detto molte volte e lo rivendico, sono tutto tranne che sorpreso di questa vicenda, perché a Cappuccetto Rosso ho smesso di credere e a Babbo Natale quando avevo 7 anni, e quindi non mi sorprende per nulla quanto sta succedendo, ma anche dal punto di vista, sono d'accordo con Crosetti, della tempistica, perché che questo avvenga il giorno prima dell'elezione presidenziale magari un senso ce l'ha pure, quindi permettetemi di non essere per nulla sorpreso. Poi vediamo domani cosa succede in questa elezione presidenziale, in cui Platini ha detto l'Europa voterà contro Blatter, ha chiesto a Blatter di fare un passo indietro, e Blatter, da 17 anni padrone della FIFA, ha detto no perché è tardi. Saluto e ringrazio Franco Ordine del Giornale. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Dammi una tua lettura di questo casino della FIFA e poi parliamo di Ancelotti. Ma che Blatter potesse fare un passo indietro, non escluso. Credo, era da escludere. Lo stesso Platini credo che l'abbia fatto solo e soltanto come dovere per tentare di rimettere in ballo e in circolazione un'altra idea di FIFA. Ma è troppo tardi in tutti i sensi. Credo che però costituisca comunque, anche in caso di elezione di Blatter, comunque credo che costituisca l'inizio di una parabola discendente da parte del vecchio colonnello svizzero, perché ormai a questo punto, con gli sviluppi che ci saranno, perché gli sviluppi ci saranno, non credo che se ne possa uscire indenne, certo. Anche perché nel passato le tante, le troppe voci, leggende metropolitane che parlavano di questi traffici illeciti, soprattutto in occasione dell'assegnazione di mondiali, avevano, come dire, si infrangevano contro un muro di gomma che era rappresentato dalla giurisdizione svizzera, sì, che difendeva a denti stretti anche questo il castello della FIFA, sì. Esatto. Adesso che questo castello è venuto giù, ho l'impressione che gli svizzeri saranno costretti ad aprire gli occhi e in qualche modo a mettere mano a questa vicenda che, sì, secondo me, di cui non conosciamo nemmeno attualmente le dimensioni, perché ha dimensioni incredibili. Io, certo, personalmente, certo, ho un ricordo, tanto per citare poi Platini e l'UEFA, di quello che accadde a Cardiff in occasione della assegnazione degli europei del 2012, sì, che poi andarono a Polonia Ucraina. Ucraina. Quello che fece il presidente della Federazione Ucraina nelle notti precedenti è una cosa che non vi sto a raccontare. Io ero nello stesso albergo e quindi ho assistito con i miei occhi. E possiamo, quindi possiamo usare tutta la nostra fantasia. Senti, senti Franco, molti si arrabbiano perché ho parlato di sceneggiata napoletana, ma lo confermo a proposito di Benitez e di De Laurentiis, che è giunta ad una elegante conclusione piena di buoni sentimenti, elegante più o meno conclusione piena di buoni sentimenti. Io però parlo di sceneggiata napoletana anche per quanto riguarda il Milan e Ancelotti. Le notizie di oggi: c'è stato questo incontro in albergo a Madrid dell'ennesimo, Galliani è uscito prima di prendere l'aereo, ha detto mercoledì ci darà una risposta, 50-50, 50% viene al Milan e poi non so dove il Milan possa trovare 3 anni di contratto, 4 milioni di euro netti per Ancelotti, non so dove posso trovare questi 120 milioni che sarebbero stati promessi per il mercato ad Ancelotti. Io continuo a pensare che Ancelotti, come d'altra parte ha detto lui e come ha detto la sua signora, come dice il suo entourage, ha intenzione di fermarsi per un anno sabbatico, secondo me fa benissimo. Allora, intanto la sua signora non dice questo. La sua signora proprio ieri dice: se Carlo va in Cina, io lo seguo in Cina. Mm. Quindi, primo punto. Secondo punto, lo staff è, nel quale tra l'altro c'è anche il figlio Davide, c'è anche il genero, il nutrizionista, sono tutti pronti domani mattina, sì, a rifare le valigie e a partire per l'Italia. Il punto vero è quello che Carlo ha indicato sin dal primo giorno nella famosa intervista che ha dato al giornale lunedì scorso, sì, e cioè lui ha un appuntamento con il chirurgo di Vancouver, perché soffrendo di questa stenosi alla cervicale che gli procura un leggero forbicolio alle mani, i medici gli hanno detto che deve assolutamente intervenire chirurgicamente. Perché lo deve fare? Perché non è escluso, anzi è quasi matematico, che il formicolio poi dalle mani possa passare alle gambe. Quindi lui deve operarsi. Lunedì lui va sotto i ferri. Una volta aperta, eliminata la stenosi, è, diciamo tra virgolette, definito il tempo della rieducazione, Ancelotti è in grado di poter dire se i medici gli dicono: guardi, lei deve rimanere fermo per un mese, per 40 giorni, per 2 mesi. Se deve rimanere fermo per 2 mesi, come fa a fare l'allenatore, certo, del Milan? Certo. Oh. Quindi io credo che questo sia l'ostacolo da superare. D'altra parte, se come pensi tu e come pensano in tanti, Ancelotti fosse stato fin dall'inizio contrario e comunque diciamo disposto a non prendere nemmeno in considerazione l'offerta del Milan, scusate, mica avrebbe fatto il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto incontro. Avrebbe, al primo e al secondo avrebbe detto: guarda, è inutile che continuiamo a parlare perché io comunque non vengo. Senti Franco, posso farti una domanda maliziosa? Ma se avesse voluto dare una mano invece ai suoi vecchi amici in un momento di difficoltà? Guarda, più che una mano, in questo momento, se ti posso dire una cosa molto intima di Carletto, e invece quest'altra. Lui era uscito dalla vicenda del Real Madrid come un cane bastonato. Sì. Questo diciamo atto d'amore, questa l'arrivo di Galliani, il colloquio al telefono col presidente, una serie di insistenze da parte di amici comuni, eccetera. Insomma, tutto questo che in amore si chiama Riconoscenza, magari. Sì, no, ma altre volte di riconoscenza, tutto questo corteggiamento sì. lo ha, gli ha massaggiato il cuore e lo ha, gli ha consentito di cancellare tutto il veleno e tutta la, l'acidità che l'episodio, che l'esonero del Real Madrid gli aveva procurato e quindi gli ha fatto recuperare la serenità. Quindi lui da questo punto di vista è rimasto molto colpito. Sì, sì. Quindi stiamo su questo 50-50. Io, guarda, personalmente dico, quando Galliani è partito da Milano per Madrid era 0 e 100. 0 e 100, sì, sì. Sì, sì, sì. Ho letto quello che hai scritto, scritto. Se lui adesso torna a casa con 50 e 50 è già un successo. Certo, 50 e 50 non lo mette al sicuro, al riparo, dal no, assolutamente. Però gli consente di, coltivare ancora la speranza fino almeno a mercoledì. Certo, grazie Franco, ci sentiamo presto. Un abbraccio. Ciao Franco Ordine. Allora, saprete, o se non sapete ve lo dico io, o se volete vedere poi le registrate più tardi me ne scuso, però è cronaca, sapete come la finale NBA sarà LeBron James contro Steph Curry, cioè tutti, la finale che tutti volevamo vedere, Cavs contro Golden State Warriors. Invece oggi si corre una tappa interlocutoria, credo, ormai al Giro d'Italia. Ciao Pier Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Cosa dici? Ma guarda, tu dici interlocutoria, me lo permette, pomeriggio, però dai, io la definirei una tappa bastarda. Bastarda, sì. Sembra sulla carta. Sembra facile, sulla carta, 134.000 chilometri. Banale, sembra facile, ma non lo è affatto. Nei corridori la stragrande maggioranza non conosce le salite che affronteranno quest'oggi. Non li conosce neanche Alberto Contador. Questo non vuol dire che andrà in crisi, che sarà attaccabile, che perderà contatto, questo no. Perché sì, però è qualcosa di inedito, hai ragione. Però attenzione, potrebbe succedere qualcosa. C'è terreno per fare un po' di selezione sul monte Ologno e poi verso Piancavallo. Sono due, e soprattutto anche la discesa non va sottovalutata, perché è una discesa tecnica dove bisogna toccare poco il freno o comunque toccarli al momento giusto. Non ti sento più, dove sei? Dove stai? Ti ho perso? Sì, ti ho perso per un attimo. Stavi parlando di freno, che era il momento giusto, discese difficili. E quindi è una tappa che veramente può riservare. Adesso in realtà sta andando, probabilmente la vittoria andrà a uno dei 12 attaccanti che attualmente sono al comando e hanno 3 distinti di vantaggio. Quindi, vabbè, per la chi c'è tra i favoriti? Chi potrebbe vincere? Purtroppo c'era, guarda, ti do una notizia, ahimè, oggi finalmente va messo fuori il naso Damiano Cueto. Era entrato in questa l'ho detto prima, è caduto, si è ritirato. Esatto, e si è ritirato, quindi giornata assolutamente sfortunata per il piccolo principe veronese. In realtà poi la gara animerà alle spalle di questi 12 battistrada e quindi è bello vedere cosa si inventeranno la strana coppia della Astana. E la strana coppia è lo spagnolo, il basco Mikel Landa con il nostro Fabio Aro. Intanto vediamo se Fabio Aro ha superato le fatiche dei giorni scorsi, quindi se si sarà alimentato bene, se le gambe risponderanno e come si muoverà adesso da uomo che in ogni caso non potrà attaccare quello che era il suo gregario, che adesso era secondo in classifica e quindi dovrà proteggerlo. Bisogna vedere quale sarà la strategia che adotteranno gli Astana e i due corridori in corsa e come faranno e cosa si inventeranno per attaccare Alberto Contador. Sì. Il terreno c'è e devono sfruttarlo oggi, domani e dopodomani. Beh, chiaro. Oggi, soprattutto domani e dopodomani, due tappe più attese, arriva Cervinia, Sestriera, le grandi montagne. Però però se vogliono ribaltare la situazione, il lavoro, come si può dire, devono cominciarlo oggi. Sì, sicuro. Devono assolutamente, necessariamente incominciarlo oggi. Il terreno c'è, vi assicuro che c'è. Se avranno coraggio e un po' di creatività e di coscienza, il terreno c'è. E allora domani nella tappa, una tappa lunghissima, domani 234 chilometri. E dopo quasi tre settimane di corsa la vado a morire, domani sì, saranno sette ore. E beh, poi sono 200 anche il giorno dopo, comunque tanto per gradire. Sì, con dello sterrato che tu conosci, sì, anche tu la sua in cima, dove rosano le aquile. Hai usato anche tu, Carlo, mi ricordo. Ciao Pierino, grazie. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Nei GR serali per la cronaca di oggi, domani mattina dopo il GR delle 7 per lo speciale. Ennio da Milano, ho 50 secondi. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, velocissimo. Dica. Siccome andavo a San Siro quando c'era la Spal, figuri lei, io sono un po' vecchietto. Sì, no? Sì. Penso che per sconfiggere la violenza negli stadi bisognerebbe obbligare i calciatori, come fanno all'inizio della partita, forse scopro l'acqua calda, che si stringono la mano, i bambinetti, tutte queste belle cose qua, no? A farlo alla fine anche. Alla fine finisce la partita, si ritrovano in centrocampo, ringraziano la gente che ha pagato il biglietto, si stringono la mano e vanno sotto gli spogliatoi. Sì, come sì, fanno nel rugby? Secondo me sarebbe una bella cosa. Invece si picchiano, prendono le magliette, aizzano. E io che ho l'ultimo dei miei bambini che ha 9 anni, dice: papà, andiamo allo stadio. Guarda, una volta all'anno spendiamo 500 euro, se no. A fare cosa? Lei dice: no, può essere una buona idea. Non credo possa essere risolutiva dei problemi che abbiamo, però ci avevano anche provato per un certo periodo, è stata introdotta anche questa regola del terzo tempo e del fair play eccetera. Non credo però, Ennio, purtroppo possa essere risolutiva per i problemi che ci sono lì dentro. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Naturalmente domani dopo il GR delle 2 siamo qui ad aspettarvi. Ciao. Arrivederci. Lupi lupi! Lupi lupi, au! Lupi lupi, au! Grazie, ancora. E in bocca al lupo.